Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Un sogno, cammini per le strade di una città e dove appena appena c'è un po' di verde o addirittura un giardino, eccole lì tutte colorate. Bellissime, le farfalle, stai parlando delle farfalle e sì, un sogno, un'utopia, chissà, magari... Torneranno? Chi lo sa, adesso proviamo a parlarne. I titoli e poi arriviamo subito. Facciamole tornare in mezzo a noi. Un recente rapporto europeo ci mette in guardia. Le farfalle stanno diminuendo del 50%. Anche le api non se la passano bene. Da tempo sono in crisi, ma le cause adesso le conosciamo. Ci sono progetti per invertire la tendenza. Ma la scienza potrebbe prevenire i fenomeni di estinzione? Spazzatura sulle spiagge. La potremo segnalare con lo smartphone. Un progetto del CNR che ha coinvolto un liceo di La Spezia. Iniziamo parlando di farfalle, questo mondo così colorato, anche se in realtà la notizia che ci arriva dalla comunità europea non è così colorata, anzi è piuttosto buia. Qualche giorno fa è uscito un rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente che ci dice che le farfalle purtroppo stanno drasticamente diminuendo e quasi sono ridotte del 50%, pensa, nell'ultimo anno. Su 17 specie, praticamente 8 sono quasi in via di estinzione. Allora noi così abbiamo pensato di parlarne con il nostro entomologo di fiducia, che è già stato nostro ospite, ma per capire piuttosto, sì certo, i motivi senz'altro di questa estinzione, ma che cosa si potrebbe veramente fare per attivare un piano di conservazione. Quindi diciamo, salutiamolo subito Gianumberto Accinelli, intanto buonasera e bentornato. Buonasera. Lei è entomologo dell'Università di Bologna, vogliamo un attimo commentare questo rapporto, insomma in tutta Europa queste 17 specie di farfalle si stanno drasticamente riducendo di numero. Il motivo intanto di questa drastica diminuzione? Diciamo che i motivi sono fondamentalmente due. Il primo è che le farfalle sono animali estremamente sensibili e quindi sono suscettibili a cambiamenti dell'ecosistema. Detto questo, il nostro ecosistema appunto sta cambiando velocemente. In particolare l'uso irrazionale degli insetticidi sta così facendo diminuire le popolazioni delle farfalle. La seconda cosa è che la nostra agricoltura è sempre molto, molto specializzata, è sempre più specializzata, e quindi le piante su cui vivono le farfalle vengono considerate le cosiddette erbacce, le malerbe, e quindi tolte dall'agroecosistema. Sono sicuramente malerbe per la moderna agricoltura, ma invece sono fondamentali per la vita di questi bellissimi lepidotteri. Un altro motivo è l'urbanizzazione crescente. Il cemento, l'Europa in generale, l'Italia in particolare, stanno così subendo una cementificazione terribile, e ovviamente sul cemento non cresce apparentemente niente. Non è l'ideale per le farfalle. Le chiedo una cosa però, c'è una diminuzione del 50% delle specie oppure c'è anche un calcolo della quantità? Perché non so, Chiara, in realtà ma entrambi i dati credo, no? Ma credo che la sensazione che abbiamo tutti è che una volta le vedevamo, adesso proprio non si vedono più, quindi c'è anche una diminuzione quantitativa enorme. Beh, in città praticamente sono scomparse. Sia qualitativa sia quantitativa. Sono alcune specie che stanno proprio scomparendo, ma la maggior parte delle altre farfalle invece stanno diminuendo le popolazioni. Popolazione. Il maccaone che vedevamo comunemente fino a qualche anno fa, ebbene si vede sempre meno. Che cosa si potrebbe fare? Ma io così riprenderei il vostro discorso, che bisogna sognare, ma bisogna sognare all'ombra della ragione. E quindi io e il professor Gustavo Gandini dell'Università di Milano abbiamo dato vita a un progetto, si chiama Effetto Farfalla, ed invitiamo i cittadini a coltivare piante con un senso ecologico. Normalmente le piante che coltiviamo in città sono addomesticate, diciamo così, e hanno perso quelle caratteristiche che servono alla natura. Banalmente i fiori delle piante che coltiviamo non hanno il nettare per le farfalle o per altri insetti utili. Basta riportare quindi queste piante, io e il professore ne abbiamo selezionate decine. E magari ci dica qualche nome, magari comune, che noi possiamo identificare. Sì, non so, potrebbero essere le margherite. Allora, l'importante è che siano, che devono essere i due tipi, le piante cosiddette nutrici, che nutrono i bruchi, e per esempio il finocchietto selvatico, la ruta, anche l'ortica, perché l'ortica è la pianta nutrice di tre bellissime vanesse, le vanesse dell'ortica, appunto. Quindi queste sono le piante nutrici, sono anche dei pruni selvatici, per esempio, che nutrono i bruchi del podalirio, un'altra meravigliosa farfalla. E poi ci sono le piante da fiore. Piante da fiore ce ne sono diverse. L'importante è che abbiano, l'importante è che abbiano un nettare molto fluido, perché le farfalle si nutrono attraverso un apparato boccale chiamato spiritromba, che assomiglia a una sorta di cannuccia. Una cannuccina. Quindi è una cannuccina che quando è a riposo viene arrotolata, arrotolata, e poi invece quando si nutre, si srotola e succhia questo, questo nettare. E le piante che contengono questo nettare sono tante. Andiamo dalla cosmea, alla zinnia, alla coreopsis tintoria, che è una pianta bellissima, andiamo al, al viburno, al gelsomino notturno, come dice anche Pascoli. Se non ci sono in giro, e perché se ne è già parlato altre volte di queste piante, e noi mettiamo, come dire, degli attrattori di farfalle. Le seminiamo nel balcone, ad esempio. Ecco, ma da dove arrivano? Cioè, com'è che fanno ad accorgersi che lì c'è quell'opportunità? Se non essendoci più, magari la prima farfalla è a 30 chilometri, no? Com'è che avviene questa cosa? Ecco, esattamente, è proprio questo il cuore del progetto, cercare di creare dei corridoi ecologici, delle sorte di tante piccole oasi nel deserto di cemento della città, in modo tale da collegare le zone ecologicamente sane, che spesso esistono nelle zone limitrofe alla città, con la città stessa. L'idea è quella, una specie di pista, è come il, nel torrente tanti sassi su cui le farfalle possono saltare ed entrare e percorrere le vie cittadine. L'idea è quella di creare un unico grande parco urbano collegato tra di loro attraverso i singoli cittadini. E questo è un po' il cuore del progetto che abbiamo fatto anche, abbiamo costruito un sito internet www.effettofarfalla.net, dove le persone vengono invitate a coltivare a fianco ovviamente delle piante ornamentali anche le piante per le farfalle e a segnalarlo ai, così, ai concittadini. Quindi basta registrarsi e segnalare la propria oasi delle farfalle. Questo progetto è partito lo scorso marzo a Milano, è iniziato da Milano, le persone si stanno impegnando molto. Di fatto i nostri balconi, i nostri giardinetti dovrebbero diventare in qualche modo questi corridoi che uniscono le zone più verdi dove le farfalle in realtà ci delle sono. Piccole oasi, okay. Delle piccole progetto oasi. Troppo bello, bisogna mobilitarsi. È un bellissimo progetto, noi vabbè metteremo anche il link. Insomma speriamo che questo... non utopia a questo punto, che questo sogno possa in qualche modo realizzarsi qui in studio. Posso aggiungere una cosa? Sì. Vorremmo scatenare due uragani positivi. Il primo è quello ovviamente legato alle farfalle, il secondo invece di creare un'economia sociale, perché le piante che proponiamo sono coltivate dal carcere di Bollate, e quindi insomma una cooperativa sociale, e il kit che invece abbiamo studiato noi di entomologi di Bologna viene realizzato anch'esso da cooperative sociali, quindi speriamo di dare una mano anche a persone che ne hanno bisogno. È un pezzo in più interessante. Sì, cioè avete selezionato questi semi che possono essere comprati e quindi direttamente piantati senza dover andare a cercarli chissà dove. Perfetto, certo. Ok. Allora, grazie Cinelli, davvero buon lavoro e speriamo insomma di risentirci quando avremo un mondo più colorato. Speriamo. Dovremo tra poco togliere delle farfalle dal microfono. Bene, allora ci risentiamo quest'altr'anno quando tanti cittadini avranno coltivato le piante. Buon lavoro. E buon lavoro. Grazie, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Facciamo il punto sulla vicenda delle api, vicenda lunga e che però adesso possiamo capire in molti più dettagli, Chiara, e lo facciamo sì, con... In realtà le api che non stanno passando un periodo meraviglioso in questo decennio, ecco. E per carità tutte le specie sono preziose, ma certo a quella delle api è affidato un compito alquanto importante. Marco Ferrari, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ti abbiamo già presentato, giornalista di scienza di Focus, e tu hai lavorato molto mettendo insieme un po' tutti tutta la ricerca che è stata fatta fino a questo punto sulle api. Riusciamo a fare, poi vedere qualche novità, riusciamo a fare un quadro della situazione? Potremmo partire per esempio da a che punto siamo nel avere idee su quali sono le cause di questa moria delle api, che è partita quando? È partita, direi, una quindicina di anni fa, forse un po' di più, forse un po' di meno, con alcuni episodi sia in Francia e in Germania, sia negli Stati Uniti. Le cause sono state migliaia. Evidenziate. Ad esempio dai campi magnetici ai telefonini, agli OGM, a qualsiasi cosa. Cambiamento climatico, fino a, ovviamente a... Anche cose molto strane, tipo il fatto che gli americani e gli statunitensi trasportano le api per migliaia di chilometri per farle lavorare come impollinatrici. Questa ce la devi spiegare. Com'è che succede sta cosa? Allora, il lavoro più importante che fanno le api non è produrre il miele, anche se sinceramente per me quella è la cosa che fanno, che piace di più. Ci piace pensare, ecco, che lo facciano per noi. Esatto, ma non sono molto contento quando lo portiamo via. Il lavoro più importante che fanno è impollinare le grandi coltivazioni di, ad esempio, arancio in Florida e fragole o altre frutta in California, ma per fare questo devono essere trasportate dai loro quartieri invernali, diciamo così, dove svernano, dove passano l'inverno, fino in California su dei camion, ed è un grosso stress per loro. Cioè un po' come se facessimo migrare, non so, le anatre o i volatili chiusi dentro un camion. Sì, ma siamo nel caporalato proprio. Assolutamente, è un caporalato, loro poi alla fine vanno là e trovano da mangiare, sì, è sempre un grosso stress, insomma, buttate sui camion e portate là. Questa cosa non avviene in Europa. Sì, si stanno certificando, tra virgolette, attraverso la ricerca scientifica, alcune cause che sono cause, tra virgolette, storiche, si potrebbe dire, che sono parassiti delle api, come acari oppure vespe parassite oppure virus oppure batteri, cose, diciamo così, quasi naturali, si potrebbe dire, fino ad arrivare agli ultimissimi lavori che danno la colpa la metto tra molte virgolette, ad alcuni pesticidi molto particolari. Sì. Questi pesticidi appartengono alla classe di neonicotinoidi, sono stati prodotti dalla fine degli anni 90 fino ad adesso e si è scoperto che hanno degli effetti sia letali, perché essendo insetticidi, quando sono in grosse quantità uccidono le api, sia, come si dice tecnicamente, subletali. Cioè praticamente le ubriacano fondamentalmente, vanno a colpire alcune zone del cervello per cui le api si dimenticano dove era la loro arnia e non possono più tornare. Perdono l'orientamento e sappiamo che insomma gli insetti sociali è difficile che poi vengano adottati da altre colonie. Certo. Assolutamente, cioè quando vanno lontano e non riescono a ritornare sicuramente muoiono perché sono come delle cellule esterne all'alveare. Quello che succede è che questi neonicotinoidi, insieme ad altri pesticidi, ad altri insetticidi che però hanno un uso più limitato, sono sempre presenti nelle piante, perché le piante, i semi in cui vengono usati, vengono, come si suol dire, conciati, vengono immersi in questi neonicotinoidi e per tutta la vita della pianta questi insetticidi rimangono all'interno dei tessuti vegetali. Ecco, spiega un po' bene questa cosa, Marco, perché nell'immaginario del pubblico l'insetticida è quella roba che si sparge. Ora qui noi non stiamo parlando di una pianta in particolare, perché le api in generale, in pollino, tu stai dicendo che ci sono però... questo tipo di pesticidi invece viene distribuito in modo diverso? Viene distribuito alla semina. Alla semina. Esatto, i semi vengono rivestiti di questi insetticidi e quindi quando crescono la pianta contiene... Li ha già in sé. Ecco. Come si potrebbe dire che sono sistemici, cioè rimangono lì. A quel punto lì. Ma è una nuova linea di pesticidi che si può iniettare in diversi semi, no? Diciamo. E sì, quindi è relativamente nuova, sì, relativamente nuova. È molto efficace, molto efficace, perché ovviamente rimanendo nella pianta colpisce solo gli insetti. È permanente, certo. Esattamente, e colpisce solo gli insetti che vanno a mangiare sulla pianta, quindi dal punto di vista dell'efficacia e del fatto di essere mirato è un'ottima idea, diciamo, sì, così. Però c'è il fatto che ci sono anche altri insetti, appunto, cioè quando le api vanno su fiori, piante come il girasole o altre piante, su fiori di piante che contengono questi pesticidi, questi insetticidi, succhiano il nettare che contiene quantità magari minime, minimissime, perché ovviamente non ce n'è tanto, però con l'accumulo, certo, con l'accumulo hanno un effetto negativo, e questo è abbastanza accertato dal punto di vista scientifico. Ma questa è un po' vista come la causa numero uno, ecco, se vogliamo dare un ordine. Una in scaletta. Più ci sono una serie di altri cofattori, quelli che dicevamo prima, il cambiamento climatico, l'inquinamento, le polveri sottili e tutto quello che vuoi, e quindi diciamo che la situazione che tu ci dipingi non è rosea e non è migliorata. È migliorata in Europa almeno, perché c'è già stata una serie di bandi di questi insetticidi in Italia e in Francia, ad esempio in Inghilterra. Adesso la Commissione europea ha determinato che da dicembre, se non sbaglio, ci sarà un bando di 2 anni, una sospensione probabilmente di 2 anni di questi pesticidi, sono 3 in particolare, adesso i nomi sono lunghi e complicati e non mi ricordo neppure, però 3 insetticidi che non potranno più venire utilizzati a parte casi particolari. Si vedrà alla fine di questo periodo di sperimentazione se veramente la situazione sulle api sarà migliorata. Sì. E la funzione delle api è proprio loro precipua, specifica, e quindi all'orizzonte si prospetta qualcosa di drammatico, perché vuol dire che non c'è più impollinazione, oppure c'è anche qualche altra possibilità che la natura dà? Come succede sempre in natura, l'unica regola è che non ci sono regole, fondamentalmente. Già, questo è vero. Quando non ci sarà, quando non succederà mai, ma insomma, se per caso le api diminuiscono, ci sono sempre gli impollinatori selvatici, c'è altri generi di api, i bombi, oppure altri insetti che potrebbero sostituire almeno in parte le api. Non si arriverà mai probabilmente a quello che succede in una regione della Cina in cui l'impollinazione avviene a mano, cioè si va con dei pennellini, si prende il polline da una pianta e lo si porta su un'altra. Che lì api non ce ne sono. Perché di api non ce ne sono più. La storia è molto più complicata, però essenzialmente l'inquinamento da insetticidi ha abbattuto tutte le popolazioni di api. Gli apicoltori non vogliono portare le loro api in un ambiente contaminato, e certo, quindi sono rimaste senza. E certo, sì, che se per le api è così, per i bombi o le api selvatiche e le altre specie non sarà certo poi un futuro più roseo. Cioè, più o meno. Anche perché i bombi sono molto più delicati delle api, sembrano grossi, cattivi, eccetera, invece sono dei giganti gentili fondamentalmente, e non sono molto più delicati e vengono colpiti molto più rapidamente dall'inquinamento. Beh, quindi qua comunque per step successivi, per passi successivi, però si potrebbe arrivare anche a un disastro finale. Dipende dalla prospettiva. Questi pesticidi, questi insetticidi, secondo i coltivatori, sono assolutamente indispensabili, quindi è una questione di scelta. Se la specie umana o qualche subpopolazione della specie umana, come quella europea o quella nordamericana, decide che è meglio avere una grandissima produzione di, che ne so, mais o soia, piuttosto che di, che ne so, arance o mandorli, si potrebbe decidere così. A questo punto è tutta una questione di scelta. L'unica notizia buona, insomma, è che l'Europa forse rimane un po' più sensibile a questo tema. Assolutamente, l'Europa rimane sensibile, c'è alla fine di quest'anno questo bando di un paio d'anni di questi insetticidi. In America la discussione però sta crescendo anche lì, per tentare di bandire almeno in alcune zone l'utilizzo dei pesticidi. Diciamo che l'equilibrio di poteri in America è un po' diverso che rispetto a quello europeo. Sì, perché infatti la cosa che si deve capire è che, insomma, non è che se non ci fossero più le api non ci sarebbe più miele, ma non ci sarebbero neanche tutti gli alberi da frutto e tutto il resto, quindi cioè, Le piante con i fiori, ecco. Tutte le piante con i fiori che noi da cui noi ricaviamo la frutta, e quindi anche tutte le cucurbitacee, tipo melone, ancuria o cose di questo genere, tutte le parenti delle mele, dalle mele alle pere, alle albicocche, a tutte queste cose qua, hanno bisogno di un insetto che li impollina. L'ape è più facile perché la metti sotto l'albero e questo fa il suo lavoro. E non puoi sempre pensare che ci sia un piccolo nido di bomboli vicino che fa il lavoro dell'ape. È molto più facile avere degli operai a disposizione che lavorano per te. Stabilmente, proprio con quella professionalità poi. Certo, esattamente. Beh, insomma, qua non so che sensazioni avere, però... Una buona notizia, qualcuna un po' più numerosa, negativa, però insomma. In Italia però siamo abbastanza messi bene? Siamo come il resto dell'Europa. Siamo allineati. Ci sono anche qui, io ho sentito per l'articolo che ho fatto e poi per mio interesse ho sentito alcuni apicoltori che mi dicono che hanno avuto parecchie perdite negli ultimi anni. Sembra che quest'inverno stia andando un pochettino meglio, però dipende moltissimo dalle zone, dalle condizioni climatiche, da un sacco di altri fattori. Il problema è grosso, è proprio questo. Non si può dire che i pesticidi sono colpevoli, punto e basta. Sarebbe eccessivamente, come si potrebbe dire, semplicista. Sì, troppo facile. Può dire senz'altro che contribuiscono, poi la percentuale può variare dal 20 al 30 al 50%, che contribuiscono all'abbassamento e alla moria delle api. Vediamo cosa succede quando questi pesticidi non vengono utilizzati. Vediamo, dobbiamo vedere, dobbiamo avere un po' di pazienza, il problema è grosso e significativo. Torneremo senz'altro a parlarne. Grazie Marco. Grazie a voi. Ciao Marco, buon lavoro. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Api che se ne vanno, farfalle che si potrebbero recuperare. Speriamo tornino. Anche noi tendiamo a pensarci, no, come delle cose che sono come una specie, un fenomeno, noi specie umana, che sta fuori dall'evoluzione. Invece, anzi, noi ci siamo dentro perché con le nostre azioni determiniamo... Che l'estinzione possa non colpirci in qualche esatto, modo. Esatto. No? Invece noi ne determiniamo i processi. Si può allargare un po' questo discorso, anzi di molto, perché recentemente sono usciti degli articoli, delle riflessioni che hanno un bel botto iniziale, perché dicono: ma in fondo noi riusciremmo a controllare l'evoluzione, quindi l'estinzione, prevenire in qualche modo l'estinzione, invertirla in generale, no? Non più perché lavoriamo sulle farfalline, più che altro l'uomo sarebbe in grado di controllarla, ecco, forse. Tutto ciò, ecco. Discorso che fa un po' tremare i polsi, e per farlo abbiamo chiamato Carlo Alberto Redi. Buonasera Redi. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Buonasera. Genetista dell'Università di Pavia. Allora, intanto le chiediamo, tecnicamente, solo tecnicamente, è venuta fuori per esempio questa storia del mammut. L'elefante indiano contemporaneo è molto più simile, per quanto si sa geneticamente, al mammut di quanto sia simile all'elefante africano, altrettanto esistente e contemporaneo. Tecnicamente si potrebbe effettivamente riprodurre e riavere un mammut lavorando una specie estinta, insomma. È necessario premettere che stiamo parlando di un tema che è la complessità biologica inserita nel tempo, e quindi il discorso che è stato fatto di evoluzione e di come il paradigma darwiniano spieghi come nel tempo geologico, perché questo poi è un aspetto molto importante da considerare, le specie mutano, evolvono. Questo è un dato di fatto. Ora, la riproducibilità tecnica di alcuni passaggi della riproduzione animale, come lo spermatozoo si lega all'oocita e come si sviluppa l'embrione, oggi dà luogo all'idea che si possa in qualche modo riproporre in laboratorio di ricreare anche un qualcosa di estinto. Vedi il discorso del mammut che è stato detto. È necessario precisare che per riprodurre artificialmente in laboratorio qualcosa che accade in natura ci sono delle premesse che vanno soddisfatte. Numero uno, è necessario avere almeno il reagente biologico. In questo caso nel frost polare sono stati trovati dei resti di mammut, sono state viste che ci sono delle cellule ancora abbastanza integre, si è pensato di impiegarle. Però ci sono dei contesti per ora improducibili, nel senso avremmo bisogno come minimo di riproporre la tecnica di Dolly, e cioè di prendere il nucleo di una di queste cellule e metterlo in una cellula uovo. Abbiamo bisogno proprio del materiale genetico. La cellula uovo qui del mammut non c'è, per cui bisogna impiegare quella di una specie più vicina, e già questo crea un grosso problema. Di più, poi ci vorrebbe una pseudomadre, e quindi bisogna cercare un'elefantessa che da qualche parte si possa impiegare, con tutti i problemi etici legati a questo tipo di impiego, con delle difficoltà tecniche enormi. La vagina di un elefante è lunga 1,60 m e c'è l'imene, non l'imene permane, quindi ci sono dei problemi tecnici enormi. Il problema più serio è quello invece di dire: l'uomo è in grado di controllare questo processo di evoluzione? Allora, ora sapere che in laboratorio non si riesce a riprodurre ancora questo fenomeno, quindi tecnicamente sulla vasta scala direi che i cambiamenti climatici che abbiamo messo in campo hanno già fatto sparire la lista delle red species che stanno scomparendo, è enorme, enorme. Dovremo vedere che cosa si produrrà di nuovo, comunque, lo sapranno i nostri discendenti. Comunque tecnicamente abbiamo capito che è tutt'altro, Jurassic Park è tutt'altro che lì dietro, esatto, l'angolo. Ecco, e poi questo dal punto di vista del tempo, appunto, che viene visto in maniera lineare, ci pare un po' che ci sia questa idea che l'evoluzione sia una cosa abbastanza ordinata, abbastanza lineare, in realtà è un caos, sì, possiamo dire così, è difficile comunque controllarla. Certo, assolutamente, ma direi che è sotto gli occhi un po' di tutti il fatto di capire come la complessità biologica, a volte ci sembra di poter coordinare dei piccoli segmenti lineari di questo processo, ma in realtà lo conosciamo molto poco. C'è da dire che qualcosa va visto in prospettiva positiva, l'uomo è in grado di fare, si pensi quanto per le popolazioni occidentali che accedono a dei benefici legati alla loro salute, effettivamente in qualche modo riusciamo a controllare. Si pensi alla talassemia, si pensi a questo tipo di malattie che in natura procedono in un certo modo, e diciamo, le popolazioni occidentali che godono di certi benefici, il talassemico minore oggi non muore, ecco, per intenderci. Quindi alcuni piccoli microscopici aspetti riusciamo a influenzarli dell'evoluzione umana. Si pensi all'aspettativa di vita all'inizio del secolo scorso e ad oggi, sì, di alcune certo. malattie non si muore più, e quindi la selezione in quella direzione non agisce più così potentemente per noi. Purtroppo Africa, paesi diciamo i diseredati nel pianeta, ancora è forte. Mi permetto però di sottolineare allora un altro aspetto di grande interesse che dà spazio a delle visioni piuttosto positive di questi studi che abbiamo ricordato alla Jurassic Park, e del fatto che conoscere il genoma, il DNA di queste specie estinte e sequenziarlo, analizzarlo, non tanto nella prospettiva di riprodurre la specie, come abbiamo detto, per quelle difficoltà, quanto per capire nel tempo come mutano i geni, il DNA, il genoma. Sì. Questo è di un interesse enorme, perché permette sicuramente di far avanzare quella che oggi chiamiamo la genomica comparativa, che ci dice come i nostri geni, che tempi hanno, che modalità hanno di cambiamento. E questo ci aiuta molto nella predizione, la medicina molecolare futura. È un aspetto di grande rilievo, cioè sono studi comunque che ci possono essere utili, naturalistico, sì, ma anche strettamente medico-biologico. Quindi non tanto per ricreare appunto specie scomparse, no, ma per vedere l'evoluzione di quella componente, certo, però fondamentale, essenziale della vita, che è la cellula, e questo potrebbe darci grandi informazioni dal punto di vista delle terapie, delle medicine che possiamo mettere in campo. Vorrei ritornare un attimo però a un passaggio al tema che abbiamo affrontato quando abbiamo visto, insomma, che questa evoluzione è un gran caos. Qui probabilmente, siccome il messaggio di Darwin era invece basato essenzialmente, no, dalla sua teoria, insomma, era basato essenzialmente sul fatto di aver scoperto come c'è tutto un percorso di intreccio tra varie specie anche molto diverse fra loro, per cui improvvisamente scopriamo, se non ricordo male, che il rinoceronte ha qualcosa a che fare con le balene addirittura, allora lì ci diede la sensazione che c'era un meccanismo molto ordinato, ma questo meccanismo ordinato è però qualcosa prodotto invece in una grande macchina che è casuale, insomma, e questa è forse una cosa non facile da far capire. Non c'è dubbio, è quello che ha intrigato molto anche gli aspetti filosofici dell'acquisizione delle conoscenze biologiche. Si pensi a Il caso e la necessità di Monod, un libro degli anni 60, chiamati in causa proprio da questo tipo di riflessione. Ma direi che l'esempio forse più bello però per capire praticamente questi aspetti è andare a visitare il Bosco delle Querce di Seveso. Cioè, questo è stato un esperimento naturale, tragico, indubbiamente, ma di un'ecologia ricostruttiva. Redi, lei ha fatto questo esempio della foresta di Seveso. Se ci dà qualche spunto in più per chi appunto non ne avesse mai sentito parlare. Certo, Seveso 1976, la rottura di un Alicnesa, questa fabbrica che produceva delle sostanze chimiche particolari, produce un potentissimo teratogeno, un isomero della diossina, 2,3,7,8 tetracloro paradiossina, il più potente mutageno mai messo sul pianeta dall'uomo. La nuvola si sparge, dramma, le donne devono abortire, di tutto. Viene scarificata l'area, cioè l'area dove c'erano le case, 30 centimetri, distrutta, completamente. Le macerie servono a costruire una sorta di deposito e su quell'area viene ricostruita la natura. Oggi è un parco dove si può portare un bimbo a giocare e andare a visitare, è ripopolato da mammiferi, rettili, uccelli, insetti, di tutto. E questo è un esempio importantissimo, perché oggi il pianeta è stato devastato dalla rivoluzione industriale ad oggi. Noi abbiamo devastato un terzo del pianeta, dalla rivoluzione dell'agricoltura ad oggi i due terzi. Noi dobbiamo pensare, con queste tecniche che voi avete ricordato che oggi sono fantascienza, come ricostruire il pianeta prima di andare su Marte. E gli esempi rarissimi sono uno o due, Seveso è uno di quelli, e lo studio di come si ricostituisce l'ecosistema dà delle informazioni importantissime anche nell'ambito della riflessione delle specie che scompaiono, le specie che appaiono, le specie che mutano. Sono aspetti molto importanti e di rilievo per la natura, per l'uomo e per la salute. Cioè, lei dice che questa capacità della natura di produrre un'infinità anche disordinata di opportunità è tale che può anche andare a recuperare qualcosa che si riteneva completamente lontano proprio dalla natura, invece improvvisamente viene fuori un bosco, la natura si rimangia tutto il problema e trova una soluzione. Guardi, l'esempio ultimo per chiudere: quando ci fu in Valchiavenna, Sondrio, il famoso alluvione, disastro, scomparirono alcune sottovarietà di topolini che noi stavamo studiando. Sono ricomparsi diversi, in quella zona. L'evoluzione procede così. Così. Ma ad esempio la genetica ci potrebbe in qualche modo aiutare, non tanto negli scenari che dicevamo prima, riportare in vita un mammut, ma semplicemente tra virgolette, riuscire a conservare, a mantenere, a fare qualcosa per quelle che ci sono, evitando appunto il disastro. Fantastico, questo è il punto di una riflessione di grande rilievo, cioè che cosa riusciamo a conservare di quello che, e c'è un fondo spirituale bellissimo, la natura ha creato, cioè l'intervenire così pesantemente come abbiamo fatto come uomo sul pianeta è veramente qualcosa che l'etica, Hans Jonas, ci hanno già richiamato all'ordine. La genetica può aiutare moltissimo, non v'è dubbio, perché ci può dire quali sono gli elementi di suscettibilità. Allora, basta pensare all'epidemiologia, cioè a quanto è in grado di dirci dove, come e quando i fattori determinano che noi si possa campare di più o di meno. È l'esempio più evidente. E la genetica certamente in questo ha una capacità di analisi profondissima. Carlo Alberto Redi, grazie per queste riflessioni. Grazie, buona estate. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Bisognerà aspettare l'anno prossimo, purtroppo. Sì, ancora un annetto, perché ci vuole un po' di progettazione, di sperimentazione e per serietà. Però parliamo di una cosa assolutamente seria, perché come al solito sono protagonisti i ricercatori del CNR e c'è una duplice notizia, ora ci arriviamo. Un'applicazione per cellulari piuttosto interessante e molto estiva, che adesso raccontiamo, che si chiama Sea Cleaner, sì. Pulisci mare. E poi c'è anche una seconda notizia altrettanto interessante, per cui i ricercatori del CNR entrano in collaborazione e lavorano insieme a degli studenti del liceo. Intanto sentiamo la coordinatrice del progetto, le diamo il benvenuto, è una ricercatrice dell'ISMAR, che è l'Istituto di Scienze Marine del CNR, e benvenuta Silvia Merlino. Buonasera, salve a tutti. Ecco, ci dica un po' come è nato questo progetto, come voi ricercatori siete entrati in un liceo di La Spezia, se non erro. Allora, il progetto è nato da un'idea del gruppo a cui appartengo, quindi diciamo non è mia personale, ma è dell'ISMA, che è l'Istituto di Scienze Marine, in particolare la sezione di Spezia, è una unità operativa che ha sede a Pozzuolo di Lerici e si occupa di oceanografia fisica e da tempo collabora anche in progetti di questo tipo, ossia analisi e mappatura di plastiche e oggetti, diciamo, galleggianti oppure gettati sulle spiagge correnti, sì, di origine antropogenica. E l'idea è stata quella di creare un'applicazione per smartphone, in questo caso, che potesse essere d'aiuto nel fare queste mappature, queste acquisizione dati, perché finora veniva fatta con le tabelle cartacee, cioè durante le campagne oceanografiche, magari anche da grosse navi, quindi alte, col binocolo, eccetera, ci si metteva ad osservare, si prendevano poi appunti. Ed era abbastanza lungo e complicato. Invece, supponendo che funzioni già, cosa succede? Come si ecco, usa? Supponendo che funzioni, l'applicazione è scaricabile da qualsiasi smartphone, quindi qualsiasi persona, anche per esempio un addetto alla pulizia spiagge, quindi tantissimi operatori potrebbero scaricarsela nel proprio cellulare e poi andare in spiaggia, ad esempio, e nel momento in cui fanno la raccolta, perché viene fatta la pulizia della spiaggia, attraverso il cellulare incamerare i dati, perché ha un menu a tendina molto molto friendly. Sì, ma quali dati, scusi? I dati che interessano, a questo punto, ecco, passiamo al lato della ricerca, i dati che interessano il ricercatore, ovvero la tipologia di oggetto, quindi se è plastica, se è legno, se è un cuoio, se è, e poi anche le dimensioni, c'è un range di dimensioni. Quindi non una singola bottiglia, ma magari una certa concentrazione di plastica. E poi magari c'è la possibilità di mettere una foto, proprio georeferenziare, rifiuto. Esatto, c'è la possibilità di fotografare l'oggetto. E la cosa importante è che, per esempio, gli oggetti molto grossi, che non possono essere rimossi, perché durante la pulizia delle spiagge vengono proprio delimitate delle aree, sempre quelle, e vengono tolti gli oggetti e portati via, e quindi ogni oggetto poi viene entra in questo database con le sue caratteristiche. Sì. Che servono poi per le statistiche che vengono fatte, ma ci sono degli oggetti che non possono essere rimossi. Allora, a quel punto l'applicazione fotografa e dà il punto GPS in automatico delle coordinate di questo grosso oggetto. L'oggetto quindi, che non si può rimuovere potrebbe essere magari un resto di metallo anche grosso, non solo plastica. Una grossa gabbia a volte abbiamo trovato, oppure potrebbe essere anche un enorme copertone che chiaramente... Da camion. Certo. Non può essere messo nella borsa, nella sport e portato certo, via. Ma anche noi, ecco, io e Chiara che vediamo sono... quindi anche noi il pubblico. Abbiamo pensato proprio che questo lavoro, che finora è stato fatto esclusivamente come oggetto di ricerca e anche magari a volte progetti dedicati, ma a volte invece saltuariamente, cioè come cosa in più durante campagne dedicate ad altro tipo di ricerca, potesse essere reso più facilmente attuabile anche da persone che fanno le pulizie delle spiagge oppure che vanno in barca. Ecco, infatti io volevo chiederle, una volta raccolti tutte queste segnalazioni nel database, ad esempio io e Federico ci troviamo a Lerici e vediamo che c'è un mucchio grosso di plastica, di bottiglie di plastica, mandiamo la segnalazione, a quel punto chi la raccoglie e cosa succede? Allora, non è così semplice, perché le cose devono essere fatte con dei criteri, ovvero deve essere delimitata una zona di spiaggia e poi deve essere mappata quella zona. La zona successivamente, dopo 3-4 mesi, deve essere riesplorata nello stesso modo e i dati accumulati durante addirittura a volte anche 5 anni possono servire per produrre delle statistiche che danno informazioni sul rate di accumulo, cioè il ritmo di accumulo della plastica in quella zona. Lei intende che potrebbero esserci delle correnti che portano lì dei rifiuti, per cui è necessario monitorarle nel tempo. Tendenzialmente, va fatta con criteri scientifici, però l'idea nostra è quella di poter fornire uno strumento che sia semplice e che possa aiutare gli scienziati a raccogliere questo tipo di strumenti. Le spiego come. Non so, ad esempio, sa che in astronomia da tanti anni gli astrofili svolgono una funzione agli astronomi, importante. Ecco. La nostra idea è che siccome ci sono tantissime persone, volontari, che fanno pulizie nelle spiagge e vanno sempre anche negli stessi luoghi a distanza di mesi, questi volontari possano con questo strumento far diventare la loro pulizia, che è comunque una cosa utile alla società, anche qualcosa di utile scientificamente. Sì, sì. E in questo modo sarebbero facilitate, non dovrebbero faticare a riempire tabelle e moduli di cui non capiscono neanche il significato. Certo. Quindi questo sarebbe uno strumento che potrebbe proprio funzionare così. Beh, da una parte dà indicazioni scientifiche su come si muovono le correnti, forse possiamo ricordare che nel nord Atlantico c'è praticamente un'isola, un'isola gigante che raccoglie un'infinità di plastica e che dà una misura, è un segnale molto preciso di come le correnti si muovono, però allo stesso tempo sapremo anche dei luoghi, per esempio sulle coste italiane, dove bisogna dove intervenire. C'è una notizia che ci dice che se ne sta formando una nel Mediterraneo è vero, quindi... è vero. A voi interessa senz'altro. Ecco, lei che appunto immagino sia spesso su queste navi oceanografiche, che fa ricerca così, sulle coste italiane, sulle nostre zone, come siamo messi, ecco, dal punto di vista di questo tipo di inquinamento? Io purtroppo ho sotto gli occhi la zona, tra l'altro patrimonio UNESCO, di Porto Venere, Mar Ligure, la Palmaria, Mar Ligure, ed è uno strazio. Ci sono delle zone intere della Palmaria che tutti gli anni infatti vengono ripulite dai volontari, perché durante l'inverno è pazzesca l'accumulo. Poi chiaramente dipende dalla presenza vicino di grossi centri abitati, di fiumi, di porti, però ecco, la zona che conosco io, molto densamente abitata ma anche bellissima, purtroppo è devastata da tra l'altro quella zona lì, se non erro, fa parte di un parco, quindi è anche abbastanza già monitorata, il traffico è piuttosto sorvegliato, è già un po' protetta, eppure è un disastro. Direi di sì. Ecco, quindi... la cosa interessante di questo progetto è che è stato fatto in collaborazione con una scuola superiore, quindi con dei ragazzi del liceo essenzialmente. Utilizzando come informatici, ecco, praticamente. Sì, perché loro hanno un programma di studi dedicato, diciamo, una specializzazione informatica, e quindi sono venuti a fare uno stage nel nostro istituto, sono rimasti 15 giorni e poi hanno continuato grazie ai loro professori che li hanno appoggiati e anche a due ricercatori di Pisa che sono venuti apposta a dargli un'infarinatura di questo sistema operativo Android che poi loro hanno utilizzato. Beh, è una cosa bella questa di coinvolgere una scuola. Molto bella e sono stati bravissimi. Adesso bisogna testare il tutto. Adesso bisogna testare, insomma, sì. Silvia, ci faccia sapere quando avremo una demo che possiamo un pochino vedere e farci un'idea di che cosa sarà questa applicazione. Il prossimo anno lo testiamo e se poi funziona come deve sicuramente ne sentirete parlare. Va bene, grazie Silvia. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro, buon estate. Grazie a voi, arrivederci. Arriva un gufo che ha bisogno di riparazioni e loro lo riparano. Non solo gufi, testuggini, altri uccelli. Dunque, dobbiamo andare a Rovigo, al CRAS, che è il Centro di Recupero Animali Selvatici, perché qualche giorno fa ci è arrivata una mail in cui ci lanciavano un SOS, ci chiedevano un aiuto e noi vogliamo darglielo. Gli offriamo, insomma, questi 5 minuti di microfono per capire che cosa sta succedendo in questo centro. Allora, ci colleghiamo con Eddie Boschetti. Intanto, benvenuto a Mebius. Grazie a voi, buonasera a tutti. Lei è presidente del WWF di Rovigo che collabora appunto con questo centro di recupero. Avete lanciato un allarme perché purtroppo a causa del taglio dei fondi rischiate purtroppo di chiudere. Quindi ci racconti un pochino la situazione e poi ci spieghi, insomma, per sensibilizzare anche la gente che sta ascoltando, che cosa possiamo fare per darvi una mano. Certo, sono 20 anni ormai che operiamo in provincia di Rovigo con questa struttura, con questo servizio che è stato messo insieme dalle associazioni WWF e LIPU ed è stato sostenuto ed è sostenuto tuttora dalla provincia di Rovigo, perché con un contributo di 10.000 euro siamo riusciti finora a soddisfare un bacino di richieste che si aggira attorno ai 1.000 casi. In quanto tempo? In un anno abbiamo una casistica di questo tipo, per cui sono numeri grossi. Siamo abbastanza oberati e non è facile riuscire a soddisfare tutte le esigenze, tant'è che molte volte alla gente dobbiamo e diamo volentieri anche delle indicazioni su come intervenire senza necessariamente passare da ricorrere voi al centro recupero. Boschetti, ci fa qualche esempio dei vostri interventi più riusciti? Noi siamo in un'area strategica a livello nazionale perché ci troviamo proprio a ridosso del delta del Po, quindi di un'area umida importantissima, per cui vi è il transito di tantissime specie di uccelli e praticamente non c'è specie che non sia passata attraverso il nostro centro di recupero, da aironi, uccelli acquatici in generale. Ma vi arrivano come? Con un'ala spezzata, con ferite? Vi arrivano con le più svariate casistiche, da intossicazioni di tipo alimentare per aversi nutrito di mangimi o carogne, per esempio, che hanno subito dei processi di avvelenamento. Questo capita molto spesso con i rapaci, per esempio. Poi ci sono i traumi da urto, che sono una delle casistiche più frequenti, soprattutto sui rapaci notturni che di notte vanno a sbattere addosso alle auto. I gufi, le civette un po' ammaccati. Civette e barbagianni, purtroppo. Tra l'altro il barbagianni è una specie su cui stiamo puntando particolari sforzi e che è oggetto anche della nostra campagna di recupero fondi, proprio per stabilire delle strategie di conservazione su questa specie che è in forte calo numerico. Avete rimesso qualcosa come un 130 testuggini, tartarughe di terra, perché le avevate ottenute, diciamo, da un sequestro di un traffico illegale? Sì, può capitare che i CRAS a volte vengono investiti da queste ondate di animali che molto spesso sono oggetto di sequestro da parte del Corpo Forestale dello Stato. Io ho appena terminato con i colleghi e amici del Corpo Forestale dello Stato la liberazione di 20 delle 130 testuggini che ci erano state recapitate lo scorso anno e che per tutto l'arco, per un anno intero, noi abbiamo alimentato a nostre spese. In questo caso il WWF che direttamente è intervenuto con le cure mediche e con l'acquisto del mangime necessario per alimentarlo in tutto questo tempo. Quindi il punto è, Boschetti, in conclusione ci dica come possiamo aiutarvi. Ci sono vari modi, ci si può aiutare sia per quelli che abitano qua vicino a noi col volontariato, perché anche la prestazione d'opera gratuita nel recuperare gli animali in difficoltà, è un aiuto indirettamente anche economico, perché e voi insegnate come fare, quindi certo. Il volontariato sicuramente una cosa a cui facciamo riferimento. Poi ovviamente chi volesse anche contribuire basta che ci visiti nel sito www.wwfrovigo.it, dove troverà proprio una pagina dedicata al CRAS e a come aiutare il CRAS. In bocca al lupo Boschetti, davvero. Non posso dire crepi lupo. No, no, lei deve, non può dirlo. Sì, giusto, WWF non è carino che lo dica. Lei lo deve riparare il lupo. Ok, nessun problema. Grazie, buon davvero. Lavoro. Arrivederci, arrivederci, salve. Mare, montagna, boschi, campagna, ovunque voi siate. O anche in ufficio, eh. Anche in ufficio. Io però volevo dire divertitevi. Divertitevi comunque, comunque, via. Ci sentiamo fra 7 giorni. Buona Ciao. Settimana.